giorno di maggio comincerà una storia tra storie, ti sceglierà. In un giorno d'autunno capirai che ci sono foglie che cadono anche vicino a te. E prenderai tempo per respirare. La corsa è più lunga e non sai come fare. E cercherai il vento per aiutarti un po'. Ma il vento spinge e fermarsi non si può. Ogni errore è già fatto, ma non vale un granché. E ogni istante è passato, anche senza un perché. L'amore cambia come il vento, come te. E cerchi il senso nel tempo di un caffè. Ti volti a guardare e conti chi non c'è. Ti volti a chiamare, non c'è nessuno accanto a te. In un giorno di giugno ti scalderai al sole, tra l'odore di gambe e il profumo di viole. E non c'è mai un modo per capir dove andare. Muoviti e basta, inizia a camminare. Ogni errore già fatto è già dietro di te. E ogni istante è passato e parla da sé. L'amore cambia come il tempo, come te. Ma non c'è il senso nel fondo di un caffè. Ti volti a cercare e pensi a chi non c'è. Ti volti a chiamare ma nessuno si volta per te. Prendi fiato, tanto il giorno finirà. E la notte più buia svanirà. Lo vedi quel treno, è fermo, aspetta te. Ma passa da sempre, è passato anche per me. E tra calma e bufera il sole sorgerà. Se il senso è sbagliato, prima o poi si chiarirà. Ti volti a guardare e conti chi non c'è. Ti volti a chiamare, io sarò sempre lì, accanto a te.